Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità e dà spazio alla cultura, alle idee, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. La nostra è una prospettiva di trasformazione sociale, politica, culturale, verso il superamento dell'antropocentrismo, in direzione di una nuova collocazione della nostra specie nell'ambito dei viventi, in una logica di fratellanza e cooperazione, anziché di dominio. È la puntata numero 700, questo è il nostro 11° anno di attività, e torneremo a parlare di balene, e poi di altri animali marini dimenticati, di nuovi cibi creati in laboratorio, di allevamenti e vecchie e nuove forme di commercio, di trofei di caccia. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni. Cominciamo dunque dalle balene, a partire da un emozionante avvistamento avvenuto nel braccio di mare che separa la costa ligure dalla Corsica. La bellezza di 40 balenottere comuni sono state avvistate in un solo viaggio, fra i porti di Vado Ligure, in provincia di Savona, e Bastia, in Corsica. Un viaggio fatto a bordo del traghetto Mega Express 5 di Corsica Sardinia Ferries nei giorni scorsi. In particolare, un gruppo di 4 balenottere comuni, fra cui anche un cucciolo, ha affiancato la nave per un paio di miglia. Per i passeggeri è stata un'esperienza straordinaria di vicinanza con questi animali selvatici, ma gli avvistamenti fanno parte anche di un progetto di ricerca e monitoraggio che investe i traghetti e permette di tenere sotto osservazione cetacei, tartarughe, uccelli marini e anche, ahi noi, i molti rifiuti dispersi in mare. Quindi, quando osserviamo con sorpresa e soddisfazione balenottere, delfini e altri animali nuotare vicino a noi, non dovremmo dimenticare che navighiamo nel Mediterraneo in un mare che un qualificato gruppo di ricercatori internazionali definì qualche anno fa una zuppa di plastiche. E questo il mondo reale nel quale viviamo. Don't hunt Il canto delle balene è una delle melodie animali che più hanno affascinato l'orecchio umano. Basta ascoltare una registrazione per esserne affascinati. Non sorprende quindi che molti musicisti si siano ispirati a questi suoni per comporre dei brani, come state ascoltando, peraltro, grazie alla colonna sonora messa a punto dal nostro Gianluca Masala. La notizia che vogliamo riportare a questo proposito è un lutto. È morto all'età di 88 anni, nella sua casa del Vermont, lo stato più verde degli Stati Uniti, il biologo Roger Searle Paine, famoso appunto per la scoperta, insieme con Scott McVeigh, altro ricercatore, del canto delle balene fra le megattere, una scoperta che risale al 1967. Paine, grazie alle sue ricerche e alle sue registrazioni, capì che le balene si cantavano serenate una con l'altra e riuscì a registrare il loro repertorio cacofonico di boati, strilli, mugolii. La grande intuizione di Paine fu la pubblicazione di un album dal titolo Songs of Humpback Whale, Canzoni delle megattere. Quelle registrazioni, che risalgono ormai a più di 50 anni fa, sono ancora oggi l'album con i suoni della natura più venduto di sempre. L'enorme successo dell'album diede via al movimento globale Save the Whales, Salvare le balene, che portò alla prima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1972 e poi diede inizio a un lungo percorso conclusosi nel 1982 con l'approvazione della storica moratoria sulla caccia alle balene da parte della Commissione Baleniera Internazionale. Nel suo impegno pubblico, diventato col tempo indistinguibile dalla sua attività di ricerca, Paine ha fondato la Ocean Alliance, un'associazione di ricerca e sviluppo che si occupa di conservazione delle balene, oltre a programmi nell'ambito della Wildlife Conservation Society e altri enti che continuano il suo lavoro di pioniere. Paine, nei suoi studi, ha descritto i canti delle balene come fiumi di suono esuberanti e ininterrotti, con temi ripetuti a lungo. Ogni canzone dura fino a 30 minuti. Paine ha anche condotto numerose spedizioni negli oceani del mondo, studiando le balene attraverso le loro migrazioni. Se ne è dunque andato un grande protagonista della lotta ecologista in favore della vita nei mari minacciati dalle predatorie attività umane. The sun was in cloud, the sun looked out, exposed a trail, mist and spouts, ships follow the ancient lead. Deceiving friends under the sea. Wow, imagine that they won't fight back. I got a theory on that. A whale's heart is as big as a car. A whaler's thought must be smudged by the dark. They won't fight back, I'm sure they know how. Beings they love are too proud. They won't fight back, I'm sure they know how. Beings they love are too proud. They swim, it's really free. If a beautiful fantasy. Hunters of land, hunters of sea, exploit anything for money. I refer to anybody that takes advantage of what that is free. It's only a thought that makes it seem right. What you don't see is because of your sight. Take what you want, kill what you can. That's just one way from a mind of man. Take their lives, sell their parts. But there's no taking of their part. If I was lost at sea, that harpoon boat in front of me, it's the whale I'd like to be. Parliamo ancora di animali marini, esseri viventi spesso dimenticati, o almeno messi in secondo piano rispetto alle specie selvatiche terrestri, per dire della campagna il mare è la loro casa. Organizzata dall'ABA, Lega Antivivisezione, col patrocinio dei Ministeri dell'Ambiente e dell'Istruzione e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto. È una campagna particolarmente importante in questo periodo estivo perché vuole sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto degli animali del mare, come i granchi e le meduse, spesso vittime dei bagnanti. L'obiettivo è anche quello di tutelare gli animali della spiaggia e della pineta, allargandosi quindi a tutto l'ambiente costiero. Giacomo Bottinelli, responsabile dell'ufficio a scuola con l'AV, spiega che l'idea della campagna nasce dall'osservare il danno spesso inconsapevole che i bambini procurano ogni estate agli animali acquatici durante le loro vacanze al mare. I bambini, dice Bottinelli, li catturano, li manipolano, li mettono nei secchielli, li trattengono in condizioni che provocano sofferenza e spesso ne causano la morte. Il nostro scopo è far riflettere, spiegando attraverso una modalità divertente e coinvolgente, che granchi, molluschi, pesci, meduse, scarabei, insetti e tutti gli altri animali sono esseri viventi, capaci di provare sensazioni e che il comportamento corretto da tenere nei loro confronti è osservarli senza toccarli o prelevarli dal loro ambiente. La carovana lava quindi toccherà nelle prossime settimane molte spiagge italiane. Un anno fa, di questi tempi e oltre, parlavamo invece dello sciagurato tour del cantante Jovanotti sulle spiagge italiane. Una tournée spacciata per ecologica, ma in realtà in perfetta controtendenza rispetto allo spirito ecologista e formativo che ispira la campagna LAV e che è proprio di chiunque abbia una minima cultura ambientalista e di rispetto attraverso il non consumo, la non aggressione per le spiagge, per gli animali marini e i delicati equilibri dei nostri fragili litorali. Quante volte, frequentando rifugi alpini, ma anche alberghi, ristoranti, trattorie, abbiamo visto appesi alle pareti quei tremendi trofei di caccia, teste di cervi, di stambecchi, di cinghiali e altri animali imbalsamate ed esibite a dimostrazione di qualcosa, forse della propria forza, della propria virilità, delle proprie abilità di caccia, ma anche, ai nostri occhi, della propria viltà, nella pratica di una violenza sempre sproporzionata e inutile e della propria presunzione. Ebbene, questo microcosmo di trofei fai a te è parte di una sorta di industria, il commercio di trofei di caccia, specialmente di animali rari e esotici, sul quale ha gettato un faro di luce la testata giornalistica italiana Kodami, con un'indagine svolta sotto copertura alla Jagd and Hund, la più grande fiera della caccia d'Europa tenutasi a Dortmund in Germania nel gennaio scorso. Il video reportage riferisce dell'impegno di Human Society International, l'organizzazione in prima linea nella lotta globale per vietare il commercio di trofei di caccia di specie minacciate. Il video dimostra, secondo gli autori, ciò che Human Society International sottolinea da anni, e cioè che l'industria della caccia al trofeo incentiva lo sfruttamento di specie già minacciate come leoni, leopardi, elefanti, spingendole verso l'estinzione. Le tariffe per i trofei possono raggiungere i $65,000 per i leoni selvatici, i $35,000 per i leopardi. Per gli elefanti si aggirano intorno ai $40,000, a seconda delle dimensioni delle zampe. L'asta record ha riguardato il rinoceronte nero, uno dei mammiferi più a rischio del pianeta. Nel 2014 il trofeo è stato aggiudicato per $400,000. Secondo il reportage di Kodami, l'industria della caccia sceglie anche quali animali svalutare, fissando tariffe basse per i trofei, come anatre, colombe, faraone, che valgono solo $5, e offrendo forti sconti per i pacchetti di caccia, ad esempio una caccia alla giraffa offerta a $1,200, oppure offrendo gratuitamente le uccisioni di animali esca, come gli ippopotami, per attirare verso i veri obiettivi che sono i leoni e i leopardi. Un quadro veramente inquietante. Ma poiché la caccia è legale, seppure regolamentata, e i divieti che esistono sono limitati e possono essere sempre elusi o aggirati, ci muoviamo nella zona di frontiera fra lecito e illegale, fra norme che consentono pratiche crudeli e la spinta a cambiarle che viene dal basso. La macabra visione di trofei e il sapere che esiste un fiorente commercio di quelli esotici e non solo di quelli dovrebbe quindi spingerci, speriamo, ad agire e accelerare il cambiamento. Si torna a parlare di carne coltivata, un tema assai dibattuto e controverso ormai in tutto il mondo. C'è chi saluta con favore questa novità, la possibilità di consumare proteine animali senza né allevare né uccidere nessuno, e chi diffida di questa soluzione tecnologica controllata da aziende private. In Italia, come sappiamo, è partita una specie di crociata contro la carne coltivata, sostenuta da agricoltori e allevatori che temono di vedere intaccato il proprio business, spalleggiati dall'attuale governo. Un'avversione che però si sta allargando anche alla società civile. Una svolta arriva ora dagli Stati Uniti, dove il Dipartimento dell'Agricoltura ha autorizzato due società della California, Upside Food e Good Meat, a vendere la carne di pollo prodotta in laboratorio ai ristoranti e in futuro anche ai supermercati. Entrambe le società avevano già ricevuto il via libera alcuni mesi fa dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, che aveva affermato che il pollo coltivato in laboratorio da queste aziende è sicuro per il consumo umano. Le due startup ovviamente parlano di una decisione storica. Josh Tetrick, cofondatore di East Just, la società a cui fa capo Good Meat, ha detto che invece di tutto il terreno e di tutta l'acqua usata per nutrire gli animali che andranno poi al macello, possiamo fare in un modo completamente diverso. E Uma Valeti, CEO e fondatrice di Upside Foods, dice: questa approvazione cambierà radicalmente il modo in cui la carne arriverà sulle nostre tavole. La carne prodotta dalle due aziende sarà etichettata come pollo coltivato in cellule e le aziende stanno cercando ora di capire come creare bioreattori abbastanza potenti da consentire loro di raggiungere grandi volumi di produzione. Le aspettative sono alte, ma non è ancora chiaro se il pollo coltivato sfonderà davvero sui mercati, se i consumatori apprezzeranno o meno questa novità. Qualche segnale arriva dal mondo della ristorazione di alta gamma. Dominique Crane, unica donna chef a 3 stelle degli Stati Uniti, ha deciso di servirlo al bar Crane di San Francisco, mentre lo chef e filantropo Jose Andres ha già fatto il primo ordine per vendere il pollo coltivato di Good Meat e servirlo in un ristorante di Washington. L'Italia, come detto, ha già pronunciato il suo no, anche a livello governativo, con un provvedimento che vieta produzione e vendita di alimenti creati in laboratorio. E sta inoltre nascendo un'alleanza di 39 organizzazioni, incluse anche associazioni ambientaliste di consumatori, per esempio Slow Food, un'alleanza che vuole redigere un manifesto per l'avvio di una battaglia contro il cibo sintetico e artificiale. Ci si concentra in questo caso sulla diffidenza per la tecnologia, ma resta da discutere la questione animale, fattore che è invece al centro delle attenzioni ovviamente delle associazioni animaliste, per lo più favorevoli alla cosiddetta carne coltivata come strumento di una possibile transizione alimentare. Speaker. In attesa di sapere che fine farà la carne coltivata, noi continuiamo a privilegiare la cucina vegana a partire dagli alimenti e dalle materie prime tradizionali. Il nostro punto di riferimento da un punto di vista gastronomico è Gabriele Palloni, autore del libro Se vuoi essere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, che questa settimana dedica la sua ricetta alle balene. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Ricetta semplice che, come le balene, arriva direttamente dall'Islanda, ma con un nome difficilissimo, le Austankunkar. Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di farina zero, 100 g di zucchero di canna, 10 g di lievito di birra, 200 ml di latte di soia, 30 g di uvetta, della vaniglia, un pizzico di sale, un pizzico di curcuma in polvere, olio di semi di arachide, zucchero a velo. Stemperate il lievito di birra in 50 ml del latte di soia tiepido e lasciate attivare per 5 minuti. Unite il rimanente latte di soia, lo zucchero, mescolate il tutto, quindi aggiungete la farina, la vaniglia, la curcuma, un pizzico di sale e l'uvetta. Il composto deve risultare liscio e cremoso, ma abbastanza denso da poter lavorare con un cucchiaio. Lasciate riposare per un'oretta coprendo con della pellicola. Trascorso il tempo necessario, scaldate l'olio di arachide e con l'aiuto di 2 cucchiai fate calare nell'olio delle palline di impasto. Quando le frittelle saranno dorate su entrambi i lati, fate asciugare su carta per frittura. Servite calde o fredde, decorando con zucchero a velo. Accidents that happen, follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The riddle gets solved and you put me up to this state of emergency. How beautiful to be state of emergency is where I want to be. You see what's inside of me. Every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. A confused chaos. Per chiudere vogliamo leggervi un passaggio di un'intervista pubblicata sul Quotidiano Nazionale, quindi il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno, con Antonio Moresco, scrittore e animatore di Repubblica Nomade, un'associazione che organizza annualmente importanti e lunghi cammini, che Moresco definisce politico-poetici. Il cammino di quest'anno, 40 giorni a piedi fra il Vesuvio e l'Etna, aveva come metafora il vulcano, per mandare un forte messaggio attraverso l'impegno fisico in un cammino lungo e difficile, cioè che tutti, la specie umana nel suo insieme, siamo sull'orlo di un vulcano e rischiamo di finirci dentro. Salire sui vulcani, insomma, per scuotere dall'apatia rispetto alle emergenze incombenti, a partire da quella climatica. Fra gli ispiratori di Repubblica Nomade ci sono lo scrittore indiano Amitav Ghosh e il defunto filosofo francese Bruno Latour. Nell'intervista Antonio Moresco spiega qual è il pensiero costruito insieme con loro. Amitav e Bruno, spiega Moresco, erano a Napoli qualche anno fa a un convegno che abbiamo organizzato e si chiamava Terrestri. È stato un momento importante perché abbiamo messo a fuoco come fra tutte le identità con cui si ingabbiano gli uomini, l'unica identità ignorata è il nostro essere terrestre. Noi, insieme alle piante, agli animali, siamo tutti su questa zattera cosmica microscopica, in una situazione irripetibile, inimmaginabile. E allora com'è possibile che facciamo tutte le cose che facciamo per dividerci e distruggere? Nessuno batte su questo punto. Tutti puntano a dividere le persone e i popoli secondo la provenienza, la nazionalità, la religione. E invece abbiamo una identità unificante. Il fatto che siamo terrestri. Io credo che se si affermasse questo principio verrebbero modificate le priorità nell'agire umano, politico, sociale, economico. Questa sarebbe la trascendenza forte da portare nel mondo. Con le parole di Antonio Moresco si chiude questa puntata. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gianluca Masala, Anna Granata, Francesco Pagnier, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Up the distant star that gives you straight just who you are. I'm more a dog, you're more a cat. Then we've gotten bored of that. Alive again, aboard a snake. Then we jump into the lake. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.